trovata il volume, aspetta. Ecco qua. Avevo toccato il Mickey Game, Marco, così bene va. Meglio, meglio, meglio. Prima era proprio wa. Adesso va meglio, dai. Ok. Chi c'è rimasto qua? No, scusa, che colpa mia, ho toccato il Mickey Game invece di toccare il volume senza occhiali. L'ho rimesso com'è, a 1:30, ce l'avevo a 2, non me la sono accorto, così dovrebbe andare bene. Ecco. E magari anche a uno, mi Claudio, a dirla tutta, magari anche a uno. Avanti e break. Buonasera a tutti, Luca da questa parte, per un saluto veloce, sono appena rientrato dal lavoro, ho acceso, vi saluto e spengo pure perché devo impegnarmi in altro. Buona serata. Ciao Luca, ciao, buonasera, ben entrato a salutare, io mi sto allontanando un attimo. Ciao Marco, sì, come lo tengo sempre 4:40? Tra lo 0 e l'1, dai, in mezzo, forse appena appena 1 e 2, così, ma non ce l'avevo troppo alto, ce l'avevo a 2 poco fa, infatti tu cazzo per non alzare il volume, ma invece stavo manovrando con il Mickey Game. Va bene, dai, mi allontano un attimo, ci sentiamo dopo. Via. Vabbè, dai, allora tutti in Core X oppure a fare roba. Ciao Luca, buone faccende, buon tutto. Dai, mi sa che stacco anch'io. Tanto Antonio se ci ha chiuso, ora mi pare devo apprendere o fare roba. Comunque tu sì, quello è un bel baracchinetto, se. E poi tu lo conosci il 6009, l'hai mai provato? Oppure quello che chiamavamo il 5555, è presente? Sì, ce l'ho avuto io quello, quasi uguale. Sì, praticamente quasi lo stesso apparato, però più piccolo, meno lungo, meno largo e meno alto. È una versione un po' più compatta, quindi c'ha meno watt. Dovrebbe avere 10 o 12 watt AM/FM e 24 SSB, però alla fine è lo stesso apparato. Ah, di carino ha che il display è appunto multicolore, puoi mettere il colore che vuoi tu. E in più c'ha il frequencimeter, c'ha anche. Vabbè, indicatore di frequenza, cioè non è un vero frequenzimetro reale, è un indicatore di frequenza, comunque sì, quello che volevi intendere tu, quello lì. No, carino, come apparato, già va bene. Potenza regolabile, quindi puoi pilotare anche roba in modo appropriato. Te l'ho detto, io l'avevo attaccato al computer, anziché 40 canali per banda, avevo fatto 60 canali per banda, quindi io girando i canali andavo oltre 40, andavo direttamente sulla tripla 5 e roba del genere, capito? Importante che sia in buone condizioni, se è un usato. Nuovo comunque lo trovi a un prezzo ragionevole ancora, 199 non lo lasciare, al prezzo che l'ha pagato lui, però è sempre fermo, ce l'ha 2 anni e ce l'ha sempre fermo, non riesce ad operarlo, dice però lasciarlo fermo, però me lo vendo, così mi ha detto. 2 anni, quindi è senza garanzia, perché gira è il prezzo a cui lo trovi nuovo, mi. Adesso dovrei controllare le quotazioni, però il prezzo bene o male era quello, mi, intorno ai 200, conta che però lo stai pagando quanto il nuovo e non hai garanzia in più, capito tu? Boh, vedi tu, dai, lo trovi anche nuovo nei negozi, non sempre, però ogni tanto lo porta a Media Globe, lo porta SDT, il sito SDT, Sierra Delta Tango, italiano, no? Sì, io gira, mi metto a guardare Media Globo, perché stavo guardando nel mio telefonino e ci sono apparecchi 4:40, 4:30, 140, c'ha tutti gli Inco, gli Aesu, c'ha un sacco di quegli apparati, però di quello ancora non ne ho visto, bisogna che me lo controlli tutto. Chi è che sta uscendo male? Chi è? Ho sentito un'emissione strana, tutta distorta. bien. E che altro dire? Oh, mi sa che stacco. Tanto qua c'è sempre più freddo e hanno chiuso tutti da. Già sentiremo. Da, buon proseguimento di serata e alle prossime. Sì, ok, ci risentiamo. Alle prossime. Ascolti, volevo chiedere, ma Gio Maria non sta più entrando? Perché l'ho sentito pochi giorni fa in PMR. In PMR, forse stava parlando con forse Pomponio, e dice sono entrato qua a salutare perché dice all'Udeggi non vuoi mai nessuno, siamo sempre qua ogni sera, forse diciamo che non coincidono gli orari suoi, lui magari entrava nel pomeriggio più presto, a quest'ora magari sta già cenando, tipo, no? Sì, infatti, quest'ora sta già cenando, sta mollando tutto. Io non l'ho più sentito. Lui invece che entra verso le 6, le 5, magari l'ha sentito a quell'ora lì, però a quest'ora io non l'ho più sentito. Tempo di chiamarlo al telefono, sono sempre impegnato io a quell'ora lì, alle 6:30, 7, molte volte. Sì, va bene. Eh sì, noi entriamo un po' tardi, dopo le 6:30, c'è volte anche alle 7 entriamo, se entriamo pure, vabbè. Però grosso modo vedo che bene o male qualcuno c'è, dai, a quest'ora, salvo magari rari giorni che non entra nessuno, può capitare, tipo sabato, domenica, magari la gente va fuori, no? Sì, infatti è così. Fate così, purtroppo non ci puoi fare nulla. Molte volte sono anch'io impegnato e non ho tempo di con i miei nipoti che devo andare a accompagnare e devo rimanere lì per prenderlo sino alle 8:30 quando rientro, e quindi non c'ho tempo neanche ad attaccarmi. Lega, comunque guarda, se domani sera ci sei, che se ci sono anch'io te lo faccio sentire il DX10, te lo faccio sentire tipo con l'MB più 4, con questo, così ti fai un'idea, comunque è uguale a questo, esce come, te l'ho detto, come il 5555 oppure Intec 5005, CRT 6009, stessa cosa, addirittura penso che la scheda dentro sia la stessa. Però mentre in quello modello grande praticamente la scheda ti prende solo mezzo apparecchio, resta vuoto, no? Lì dentro diciamo ti riempie tutto il telaio della Linco, ecco, la scheda è la stessa. Va benissimo, va. E riesco a non a giocare a ricomparare, che tanto per andare così non basta quello che ho. Quindi, per entrare nei canali del coso, nelle altre frequenze, già ce li ho, c'ho il 140, c'ho il coso, il quadribanda, che il quadribanda sto cercando di vendermelo, però tutti mi devono abbassare un brigio, e io dico di no. Io certe volte faccio la collezione, cioè alla fine sono tutti uguali, me il 5005, la Linco, questo è una stessa cosa, sì, qualche opzione in più o meno, il 9009 è una stessa cosa, addirittura mi pare di aver letto che il presidente McKinley che ho, sempre con la MFMSB, dovrebbe avere teoricamente quasi la stessa scheda della Linco, però diciamo il presidente è più personalizzato, no? C'ha delle funzioni personalizzate, però la scheda grosso modo dovrebbe essere quella. Alla fine mia è come pigliare tante macchine diverse e il motore lo mattessi, identico, stesso identico motore. No, io sto adoperando questo presidente di IAC che AMFM e c'ha 40 sopra, 40 sotto e 40 normali, cioè, hai capito? Esce 10 watt, esce. Hai detto che modello, presidente? IAC, IFK. Ah, JFK, John Fitzgerald Kennedy, sì, il JFK, sì, sì, sì. E ne fa un bel presidente di baracchini. Caspita, la Intec, boh, la ditta italiana che avevamo non fa più niente, fallita, è chiusa da anni, chiusa da anni e anni. Pensa, invece la CRT fa un bel di apparati, CRT è francese, no, la presidente, non mi ricordo se sia francese o franco-americana, un bel di apparati. Ovviamente le ditte italiane cosa fanno? Chiudono ovviamente, chiude tutto ciò che italiano chiude, la Sigma Antenne, la Eco Antenne, tutto male va in Italia. Sì, sì, infatti. Ma questo qua me l'ha mandato dalla Francia, non so che c'era in Francia, c'era in Corsica, ma mandati, cioè, aspetta che te ne mando uno io, mandami l'indirizzo, per l'indirizzo in giro di 4 giorni l'ho ricevuto, ed è buonissimo, no? Ci ho attaccato io, ci ho attaccato il coso, stavo operando l'MP5, stavo operando e sto andando con quello. Via. Poi per fortuna io avevo comprato un adattatore microfonico per un apparato, forse il 9009, e ho scoperto che era compatibile con tutti i president che ho, che sono 3, tutti i CRT che ho, e sono 3, no 2 dai, in più va bene anche sulla Linco, insomma è stata una botta di fortuna, ci hanno tutti la stessa piedinatura, e il discorso che ti ho fatto è quello, perché alla fine è lo stesso apparato, gli cambiano la buccia ma dentro è lo stesso apparato. Capito? Sì, ma se non trovo la Media Globo me lo ordino, tanto va a venire un in più, cosa faccio? Quindi a 200 euro ci può pigliare. Ehi, almeno quello è il prezzo che ricordo. Io, comunque una cosa, Media Globo fa sempre i prezzi più bassi. Per esempio, se tu vai su FLQ Elettronica, magari lo trovi, però anziché 200 te lo vai a pagare 230 euro. È nuovo, la Linco è il 10, quello lì insomma. Quindi Media Globe ha sempre avuto ottimi prezzi sia sui baracchini e sia sulla roba amatoriale. Sì, no, c'è cosa, Media Globe, ho preso un sacco di roba io da loro, quindi mi hanno fatto anche parecchio sconto pure, ho preso un sacco di roba, ho preso da loro anche i cosi, gli alimentatori, i due alimentatori ghiaccioli li ho presi da loro. Bene, Tore, dai, io chiudo che stavo fumando la sigaretta elettronica, è finito il liquido, mi è arrivata in bocca la zaffata di sapore di bruciato, sai quando finisce il liquido? Mamma mia che cosa mala! Dai, vado in bagno a sputare, ci sentiamo, ciao! Ciao Marco, alla prossima!